Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Gli invisibili di Nanni Balestrini, parte 22esima. Ho fatto il viaggio di ritorno allo speciale insieme a un ragazzo che poi è stato ucciso in carcere, anche lui. E prima a sua volta aveva ammazzato qualcuno in carcere. Era destinato in uno dei primi braccetti della morte che stavano sperimentando in quel periodo. Era destinato lì perché aveva ucciso uno in uno speciale per una questione di regolamenti di conti tra mafiosi. Non so bene. Mi faceva una strana impressione quando pensavo che era uno scannatore. All'apparenza era un ragazzo innocuo, quasi tenero. Aveva un grande drago colorato tatuato sul petto. Abbiamo parlato durante tutto il viaggio che mi riportava al carcere speciale, dopo il processo. Poi è finito male. Questo ragazzo l'anno dopo gli hanno tirato una trentina di coltellate. L'hanno ammazzato. Prima di partire stavamo in celle di fianco, era venuto lì anche lui, per un processo, e mi passava dalla finestra il pollo arrosto che gli mandava la sorella. Ho fatto il viaggio di ritorno sul solito blindato. La cosa assurda è che ero contento di tornare giù allo speciale, per rivedere tutti i compagni, gli amici. Parlavo con questo ragazzo nel blindato, e lui era abbastanza disperato di finire in questo braccetto della morte, diceva. Che lì era impossibile vivere, non c'era nulla, era in isolamento completo, totale, non poteva scrivere ai familiari, era difficile perfino comunicare con l'avvocato, i detenuti non si vedevano mai, tra di loro una condizione di isolamento assoluto totale. Dall'oblò del blindato vedo il complesso del carcere venirmi incontro. Poi l'immagine si riduce al particolare del muro di cinta dietro il reticolo della rete metallica altissima. Con in cima il filo spinato, scorrono le guardiole di vetro blindato, poi il furgone si ferma davanti al primo cancello. Mi sembra di tornare a casa. Vengo consegnato alle guardie e poi comincia il solito rituale della perquisizione, della roba degli zaini. Mi fanno una radiografia perché c'era questa novità. Adesso che il ministero aveva inviato una macchina per fare le radiografie, perché avevano avuto dei casini sempre quando volevano fare la perquisizione anale. C'erano sempre puttanai, casini, perché la gente non voleva, per cui erano sempre botte, puttanai, casini, su questa cosa. Allora il ministero ha fatto questo salto tecnologico, ha mandato negli speciali queste macchine per le radiografie. E allora ti facevano queste radiografie, ti mettevano dietro uno schermo per vedere se avevi infilato su per il culo le lame dell'esplosivo dentro dei bussolotti, eccetera. Perché per chi stava negli speciali le occasioni di fuga erano date solamente durante i processi, perché c'era il trasferimento, si cambiava carcere e allora c'erano questi che nello speciale ci stavano da anni e che consideravano quella un'occasione buona per tentare la fuga, per cui se avevano lame o esplosivo potevano magari sfruttare l'occasione per tentare di scappare e allora se lo portavano con sé nei trasferimenti. Mentre mi rivestivo, mi ricordo che un brigadiere mi ha fatto qualche commento sul mio processo che aveva letto sul giornale. Poi mi ha chiesto se sapevo che mentre io non ero lì c'era stato uno scannamento tra i comuni. Io ho detto sì, lo so, l'ho letto sul giornale. E allora ha cominciato a descrivermi nei particolari come si era svolto questo scannamento, perché lui era proprio lì, dietro il cancello. Io tagliavo corto, dicevo sì, sì, non mi interessa, anche perché la sua intenzione era vedere le reazioni che io avevo, o forse no. una deformazione che arriva in carcere e che si arriva a voler dare un significato a tutto, voler interpretare tutto, che tutto deve essere un segno di qualcosa, si deve poter leggere logicamente, mentre invece, se ci pensi, poi capisci che c'è sempre un sacco di cose che capitano così, per caso, come forse quel brigadiere che aveva forse solo voglia di chiacchierare. Dopo quel morto, dal ministero è arrivato l'ordine di separare i comuni dai politici, ma il morto è stato un pretesto. Era un progetto già in piedi da tempo, quello di una separazione netta tra comuni e politici. Nel frattempo, però, dopo la rivolta, i rapporti tra comuni e politici si erano inclinati. C'era stato un ricambio generale dei comuni e non avevano messo lì più nessun comune che simpatizzava per i politici e che quindi poteva essere un tramite tra le due componenti. Così è venuto meno il rapporto che c'era tra comuni e politici prima della rivolta. Non ci sono state reazioni, anzi, i comuni facevano girare la voce che erano molto incazzati con i politici perché con i loro casini avevano peggiorato le condizioni del carcere e che i casini loro non ne volevano avere più da noi. Allora, appunto, il brigadiere mi ha spiegato quello che era successo. Mi ha detto: adesso non fate più l'aria insieme, i comuni sono incazzati, eccetera. Il brigadiere continuava a parlare ininterrottamente mentre mi accompagnava in sezione per tutto il percorso dei corridoi e quando ci fermiamo ai cancelli chiusi e su per le scale e mi diceva anche che erano arrivate lì anche moltissime persone nuove e adesso avevano ristrutturato il secondo piano dopo un anno di lavori. L'avevano tutto ristrutturato e così alla fine tutto è tornato con lo stesso ordine che c'era prima della rivolta. Lavoranti al pian terreno, comuni al primo piano e politici al secondo. E così hanno potuto riempire con altra gente e quando sono arrivato al secondo piano ristrutturato ho visto com'era stato trasformato. La sezione aveva un'aria tutta nuova. Aveva un'aria da bunker, più bunker di quanto fosse prima. C'erano molte più guardie nei corridoi, c'erano molti cancelli, dei filtri nei corridoi. Non più soltanto i cancelli della rotonda, ma c'erano altri filtri di cancelli. C'erano le telecamere in alto che prendevano d'infilata i corridoi. Le telecamere accese con le lucine rosse. Le blindate sono chiuse e dagli spioncini vedo facce che non conosco. Il brigadiere mi dice: io ti consiglio, mi dice paternalista, io ti consiglio, dammi retta nel tuo interesse di metterti da solo in una cella, perché nel camerone con gli altri lo sai che ti vengono addosso i guai, è da tanto che sei qui e lo sai, dammi retta, mettiti da solo. Io gli ho detto no, io voglio tornare nel camerone con i miei amici. Il brigadiere scuote la testa, fai come vuoi, però per stanotte devi dormire qui, devi stare solo. Adesso nel tuo camerone i posti sono tutti occupati, ma domani c'è uno che parte per un processo e quando questo parte potrai andare nel camerone e prendere il tuo posto che avevi prima di partire. Passando nel corridoio ho visto molta gente che non conoscevo, ma poi sono arrivato alle celle dove c'erano i vecchi compagni che avevo lasciato, per cui il solito rituale dei baci tra gli spioncini, con i nasi che si appiccicano sui bordi degli spioncini. Queste cose, le urla, i saluti, che poi sono continuate quando sono entrato nella mia cella. Sono rimasto un po' a urlare dallo spioncino. Poi è finito, con ci vediamo domani all'aria. E poi i compagni mi hanno mandato le cose da mangiare. Troppa roba, ognuno ha mandato qualcosa. Quando i saluti sono finiti, ho guardato meglio la cella e la cella in effetti era completamente trasformata da come erano prima, nel senso che, per esempio, avevano tolto tutte le mattonelle dal pavimento, avevano fatto una semplice colata di cemento liscio. Alla finestra, oltre alla doppia serie di sbarre che già esisteva, hanno aggiunto un'altra grata di sbarre speciali, che erano dei grossi cilindri incrociati a rombo. Avevo già sentito parlare di queste nuove sbarre, perché sono le famose sbarre antiseghetto. perché sono di una lega speciale e hanno all'interno un'anima, un altro cilindro d'acciaio che ruota sul suo asse. Così, anche nel caso che col seghetto intacchi le sbarre, quando arrivi a metà trovi l'anima che ruota e il seghetto non riesce a fare presa sull'anima che ruota. Quindi, oltre alle doppie sbarre che già c'erano, hanno messo in più un'altra grata di queste barre speciali. E in più, ancora fuori, hanno messo una grata di ferro con una rete talmente fitta che non ci passava neanche un mignolo. E poi, il giorno dopo, ho visto che non ci passava nemmeno quasi la luce. E poi ho visto anche che avevano sostituito il lavandino. Non era più in ceramica, ma era in ferro, in acciaio, incassato completamente dentro un blocco di cemento. Stessa cosa per il cesso alla turca, anche quello incassato in un blocco di cemento. Anche l'armadietto era d'acciaio e murato. Le blindate restavano chiuse praticamente tutto il giorno, era aperto solo lo spioncino e ovviamente anche la notte le blindate erano sempre chiuse. Ho passato lì la prima notte, dopo il ritorno in questa cella. Però prima di andare a letto è successa un'altra cosa, perché nella cella di fronte a me avevo un vecchio compagno che conoscevo bene e che stava anche lui in carcere da molto tempo. E di fianco alla sua cella ho visto affacciarsi allo spioncino un giovane compagno che non conoscevo. Mi ha salutato, io l'ho salutato. Poi ho parlato un po' con questo vecchio compagno. E il nuovo arrivato stava lì allo spioncino che ci ascoltava e voleva anche lui parlare con noi, ma il vecchio compagno mi faceva delle strane facce, mentre il nuovo arrivato voleva attaccare discorso con me, l'altro mi faceva strane facce, poi mi ha fatto segno con la mano come di tacere. Io sul momento non capivo. Capivo che c'era qualcosa che non andava, ma non capivo che cosa. La mattina dopo sono sceso all'aria e sono subito corso a abbracciare i vecchi compagni, per cui baci e abbracci con tutti, e poi hanno cominciato a raccontarmi tutto quello che era successo in mia assenza. Soprattutto l'arrivo di questi nuovi compagni, tutti molto giovani, che erano giudicati dai vecchi compagni come molto infantili e inesperti. Erano appena entrati in carcere, non conoscevano ancora il funzionamento dei meccanismi del carcere. In più, giravano voci che tra loro c'erano persone sospette, persone che erano state arrestate su dichiarazione dei pentiti e che nell'interrogatorio coi magistrati avevano ammesso qualcosa o tutto e avevano così confermato i pentiti, anche se non avevano fatto nomi o aggiunto altre cose. E poi c'erano altri che si erano pentiti, e poi si erano pentiti di essersi pentiti, e avevano ritrattato. Sentivo tutte le contraddizioni e le tensioni di questa nuova situazione, perché prima il clima del carcere era il clima di una comunità, dove c'erano ottimi rapporti di fratellanza, eccetera. Con questi nuovi venuti effettivamente i problemi erano grossi, perché molti di questi nuovi venuti avevano storie assurde, erano l'ultima generazione di combattenti, tutti giovanissimi e avevano tutti una biografia simile. Non avevano avuto nessun percorso di movimento, anche perché ormai il movimento era stato spazzato via. Per cui il percorso era stato di lettura di qualche documento, la distribuzione clandestina di qualche volantino, scritte sui muri, uno striscione su un cavalcavia e poi magari un omicidio, subito, fra le prime azioni, e poi l'arresto su dichiarazioni di qualche pentito. Vivevano uno sbandamento pauroso perché ormai non avevano più nessun progetto politico e fuori i compagni rimasti erano ormai piccoli gruppi che cercavano solo di sfuggire, braccati, inseguiti per tutta Italia da carabinieri e polizia. Però anche lì nel carcere conservavano tenacemente i loro vincoli associativi, di clan, di banda, che erano per loro come vincoli familiari. Io ho chiesto di questo compagno nuovo della cella di fronte a me, che la sera prima mi avevano fatto segno di non parlargli, e mi hanno detto che era uno di quelli arrestati un paio di settimane prima. Io avevo seguito alla televisione la sua storia e il suo arresto, e quello degli altri suoi compagni, feriti, fuggiaschi per le campagne e i boschi. Questa scena di caccia grossa con l'inseguimento dei carabinieri in elicottero e a cavallo, dopo che avevano fatto una rapina andata male. Li hanno catturati e la cosa che era successa è che questo era stato torturato e sotto tortura aveva parlato e aveva fatto arrestare altri suoi compagni, che adesso erano anche loro lì nello stesso carcere. Questo per la prima settimana era rimasto in cella, non era sceso all'aria. E i suoi compagni hanno dovuto trattare e discutere con gli altri e hanno garantito per lui, dicendo: questo è stato torturato, ha fatto dei nomi, però siamo noi semmai che dobbiamo dire qualcosa, perché noi siamo in galera, perché lui ha fatto i nostri nomi. Però, siccome ha parlato sotto tortura e hanno torturato anche noi, anche se noi non abbiamo parlato, però comprendiamo benissimo quello che ha fatto. Quindi, dopo una settimana di discussioni qua e là, si era deciso che questo poteva scendere all'aria e tutto era risolto. All'aria era cambiato il clima. Non si giocava più a pallone, era diventata una situazione nevrotica, di discussioni senza fine, in cui ogni giorno c'era il problema di uno che forse era un infiltrato, un infame, eccetera. E c'era anche in tutti i carceri questo dibattito sul pentimento e sulla tortura, che era diventata la regola per chiunque catturavano. Allora i compagni di quello che avevano torturato e che aveva parlato gli hanno detto: è bene che questa tua esperienza venga scritta, fatta circolare. Lui ha preso la cosa con impegno e ha passato una settimana a scrivere questo documento. Al momento in cui doveva farlo leggere ha detto che ci aveva ripensato, che quella stesura non andava bene, che doveva farne un'altra. Sono passati altri giorni, ha fatto una seconda stesura, l'ha fatta circolare tra i suoi compagni. Per i suoi compagni andava benissimo. Ma poi lui ha deciso di ritirare anche questa seconda stesura e di non farla circolare più. E poi un giorno è sceso all'aria, ha chiamato a raccolta. È sceso all'aria con una faccia incredibile, molto teso, molto nervoso. Ha chiamato tutti i suoi compagni. Noi altri non capivamo bene cosa cazzo c'era in piedi, cosa stava succedendo. Ha chiamato i suoi compagni a raccolta in un angolo del cortile e si è messo a parlare con questi. Però noi abbiamo visto che questi, quando lui ha finito di parlare, non si sono messi a discutere. Lo hanno lasciato finire e se ne sono andati via tutti subito. E l'hanno lasciato lì, solo, senza dirgli niente, e se ne sono andati. Siamo andati a chiedere a questi altri con cui questo aveva parlato e abbiamo saputo che aveva detto ai suoi compagni che lui non era mai stato torturato, ma che era stato solo minacciato di essere torturato, per cui aveva preso paura e aveva parlato e fatto i nomi, senza essere stato torturato. Siamo rimasti tutti quanti sbalorditi. La cosa era gravissima. A questo punto, perché si era in pieno dibattito su come arrestare il pentimento dilagante, e capita una storia come questa qua. Ci sono quelli che sono finiti in carcere a causa di questo, che sono stati torturati davvero e che non hanno parlato, e questo qua invece è stato solo minacciato e ha parlato. Insomma, era un casino. Si capiva che era una situazione che era un casino. Allora la prima cosa che fanno è di allontanarlo dal camerone, di metterlo in una cella da solo, in quarantena. Quando questo scendeva all'aria nessuno più ci parlava e noi abbiamo chiesto ai suoi compagni che intenzioni avevano. Loro hanno detto: noi facciamo un'indagine su questa storia e siccome siamo un'organizzazione chiediamo il parere anche agli altri compagni nelle altre carceri e anche ai compagni che abbiamo fuori, per prendere una decisione, e nel frattempo questo qua sta lì. Così ci hanno risposto, così. E hanno cominciato la loro indagine, che consisteva attraverso un sistema complicato di codici, attraverso lettere e telegrammi scritti in codice con quelli della loro organizzazione che stavano in altre carceri o che stavano fuori in clandestinità, a far girare il discorso per avere poi le risposte. Questo qua si è chiuso nella sua cella, passava tutto il tempo sulla branda a leggere la pagina sportiva del giornale, a guardare i film alla televisione, come un qualsiasi coatto. Passava così tutto il tempo, in attesa della soluzione del suo problema. Parlare con lui era inutile. Non faceva che ripetere: «Io da qui non me ne vado. È giusto che i compagni che sono in carcere per colpa mia abbiano il diritto di giudicarmi». Diceva che era disposto a morire, se poteva servire a ripagare almeno in parte quello che aveva fatto. Parlava di suicidarsi, e alcuni suoi compagni, più cinici, pensavano che questa sarebbe stata la migliore soluzione per tutti, perché avrebbe risparmiato loro il problema di ammazzarlo, e anche politicamente sarebbe stato più significativo che ammazzarlo loro. La cosa che i suoi compagni preferivano era certamente di non doverlo ammazzare. Non erano assolutamente contenti di doverlo affrontare questo problema e di dovergli dare questa soluzione, di doverlo ammazzare. Si capiva chiaramente che se lo facevano non lo facevano mica perché erano convinti, ma perché erano costretti. Erano costretti in confronto ai loro compagni nelle altre carceri e fuori, di cui cominciavano ad arrivare i telegrammi con le decisioni che erano tutte unanimemente per ammazzarlo, e erano costretti in confronto agli altri gruppi combattenti che in caso contrario gli accuserebbero subito di coprire apertamente un pentito, un infame. Proprio in quel momento in cui il problema è di lottare contro il pentitismo dilagante, per cui se ci si trova davanti a un pentito bisogna subito inchiodarlo, senza pensarci un secondo. Io ero incerto, perché da una parte ero ormai dentro a questo meccanismo psicologico dell'attesa della scarcerazione. Credevo effettivamente che fosse ormai questione di poco tempo. Quindi non era il caso che mi buttassi in tutte queste storie in maniera appassionata, perché tanto avrei dovuto andarmene, abbastanza presto, di lì. Ma anche perché, francamente, quando ho saputo questa storia non mi è piaciuta molto, non perché lo disprezzavo, perché aveva avuto paura davanti alla tortura. Io lì non posso dire niente, a me non mi hanno mai minacciato di farmi bere litri di acqua salata, di darmi delle scariche elettriche sui coglioni, di pestarmi scientificamente coi manganelli, di tenermi in piedi immobile per giorni, di tagliuzzarmi con delle lamette, di bruciarmi le dita con gli accendini, eccetera. Non mi hanno mai fatto minaccia del genere, e in più sapendo poi che queste cose te le fanno davvero. Una cosa assurda era che questo compagno scendeva all'aria e puntualmente tutti i giorni andava dai suoi compagni, che lo ignoravano, evitavano addirittura di guardarlo, e gli diceva: «Allora, avete deciso?» E questi gli dicevano: «No», e lui tornava all'angolo: «Allora, nonostante tutto, io ho deciso di parlarci con questo qua». Però questo qua era completamente partito di testa. Io gli ho detto: «Vattene, vattene via da qua. Perché cosa fai qua? Cosa aspetti? Che ti ammazzano?» Lui mi ha fatto come un sorriso, ha scrollato la testa e poi ha ripreso a camminare. Allora io mi sono messo di fianco a lui e sono andato su e giù di fianco a lui un paio di volte per il cortile. Si era fatto silenzio nel cortile. Tutti ci guardavano. Era un rischio quello che facevo. Era una sfida, ma poi altri due vecchi compagni mi hanno raggiunto e hanno passeggiato insieme a me e a questo qua. Non è che pensavo che serviva a qualcosa, era un gesto e basta. Che forse non serviva a niente in quella situazione di impazzimento generale, ma almeno quello non l'hanno ammazzato. Gli hanno dato una volta un sacco di botte e l'hanno obbligato ad andare in isolamento. E tutto è finito lì. Con quello, ma di cose così, poi ne sono successe una dietro l'altra, che non si riusciva più a capire, a trovare delle soluzioni, e mi sembrava che ormai tutto era impazzito, che tutto era veramente impazzito, tutto ormai era diventato possibile, come che il tuo compagno di cella, magari il tuo migliore amico, di colpo, improvvisamente, un giorno scoppia, risali dall'aria, e lui non c'è più, e allora capisci che si è messo in isolamento, dove poi chiama un magistrato e se la canta, e si canta anche te. E così è saltata tra di noi la solidarietà che era stata la nostra grande forza, l'unica cosa che c'era rimasta. Libri ribelli. sole, ha ridotto già vecchi. Libri ribelli.